Stagione 2025-2026, siamo esattamente puntuali per la conferenza stampa, anzi da anticipatori seriali. Incrociamo Federico Danneo, presidente, e sentiamo un po' se ha sempre lo stesso entusiasmo, se è aumentato, calato. Buongiorno. Ciao, ciao William, è sempre un piacere incontrarti, insomma. Quest'anno, sì, sì, l'entusiasmo è sempre lo stesso, però diciamo vado ancora più oltre. Immaginate. No, no, allora, mi è capitato di leggere un cartello, non perché l'ho visto in presenza, ma l'ho visto tramite i social, dove c'era scritto: solo un idiota potrebbe aprire un jazz club nel 1959, no? C'era l'immagine di Ronnie Scott che fumava la sigaretta a Londra, quindi, e questa è una sua frase: il Ronnie Scott sta aprendo un nuovo piano. No? Ecco. Allora sto dicendo, noi non ci possiamo fermare qui, capito? Noi dobbiamo pensare a dove saremo, come saremo, cosa faremo per il 50° anniversario dell'attività del Jazz Club. Ecco, questo è il mio programma, non so se lo porterò a termine, però insomma, sarà la stagione come sempre è ad alti livelli. Speriamo di intercettare sempre più persone. E non mi interessano tanto quelli come te che sono, diciamo, vivo nel mondo del jazz e conoscono il mondo del jazz alla perfezione e apprezzano tutto le sonorità. Io sono interessato a quell'altro pubblico, certo. Quello che insomma, si trova sempre in difficoltà, pensa sempre che il jazz sia una roba troppo complicata, troppo che bisogna essere esperti, insomma, ecco, questo è quello che io vorrei portare. Più gente, più entusiasmo, più voglia di stare insieme in un luogo che è meraviglioso. Jazz Club per Rara con Radio Città Fujiko, estensione di frequenza in DAB, quindi sì, ok, non ti interessano quelli come me, ma ci vuoi bene. Ma certo, no, se non ci fossi tu mi preoccuperei, capito? Perché comunque la competenza è importante e anche l'entusiasmo che ci certo, mette chi ha la passione, capisco. No, no, nel senso che quella roba lì serve poi per portare dentro quelle altre persone che, insomma, noi siamo degli interpreti, soprattutto te sei un interprete che puoi divulgare, puoi dire, ragazzi, ma venite a farvi un giro, capito? Perché noi non possiamo aprire un terzo piano, però, però possiamo, tempo diciamo, ce n'è per arrivarci. A caso mio è un sotterraneo. Ok, intanto stanno arrivando i protagonisti della stagione del Jazz Club di Ferrara, quindi continuiamo la nostra conversazione, Federico, intanto che aspettiamo Francesco, direttore artistico, ovviamente collaborazioni, intersezioni, programmi nel programma anche per quest'anno, eh? Certo, certo, sempre, diciamo, la programmazione è molto vasta, sempre la parte, diciamo, straniera, il jazz che arriva dagli Stati Uniti, c'è sempre la collaborazione col conservatorio, quindi anche l'iniezione dei giovani musicisti e anche la partecipazione del pubblico giovanile che è assolutamente fondamentale. E poi ci sono i musicisti italiani, insomma, questo è quello che io poi ho detto anche a Francesco. Francesco, dobbiamo cercare di dare quel senso di ampiezza che poi possa incontrare anche il gusto di chi non viene costantemente a Jazz Club, però insomma, bisogna fare questo lavoro e Francesco lo fa molto bene, per carità. Certo, tra l'altro sta arrivando a questa nostra finta diretta Francesco Bettini, tendo la mano per accogliere, salutare e anche per aiutarlo in salita. Sì, dai, ben trovato, che bello vederti, buongiorno. Ciao, ciao a tutti i radioascoltatori e ciao William.